Un consumatore che voglia scegliere uno smartphone può provare le applicazioni in punto vendita. Sì, ha questa possibilità, abbiamo modo anche di avere dei telefoni con all'interno già una SIM funzionante, quindi si possono provare praticamente tutte le applicazioni, si può provare proprio l'esperienza della gestione dell'applicazione, della navigazione da smartphone a 360 gradi, insomma. Quali sono quelle che suscitano più curiosità? Tra le più richieste solitamente sono applicazioni legate alla navigazione a livello di GPS. Ci sono applicazioni legate a tutti i social network. La maggior parte comunque lo smartphone lo usano proprio per la navigazione anche internet. Molto richieste anche applicazioni per vedere film piuttosto che per cercare cinema, insomma, proprio a livello di utilizzo pratico nella vita quotidiana, insomma. Quindi anche quelle che riguardano i trasporti. Sì, assolutamente, anche per sapere gli orari dei treni. Ci sono molte applicazioni anche legate al campo medico, quindi utilizzate proprio anche tuttora negli ospedali, molte applicazioni anche legate alla borsa. Diciamo che queste applicazioni sicuramente servono molto anche agli utenti professionisti. Ci sono anche applicazioni, per esempio, per collegare smartphone a stampante, al PC, vengono utilizzate? Vengono utilizzate, fondamentale il discorso è che si può stampare direttamente senza fili e quindi è una cosa molto molto comoda anche per l'utente che può scattare la classica fotografia dallo smartphone e stamparla direttamente. Per quanto riguarda i giochi, invece, quali sono quelli che sono più gettonati? Angry Birds, che comunque è uno dei giochi sicuramente con maggior successo, stanno uscendo anche tantissimi gadget, dai pupazzetti ai portachiavi, quindi sicuramente quello è il principe dei giochi su smartphone, insomma, in questo momento. Ci sono gli store multipiattaforma. Suscitano un po' sicuramente di curiosità, anche se alla fine si usa sempre comunque lo store più che altro legato al proprio sistema operativo, al proprio dispositivo. Ormai si trova tutto su tutte le varie piattaforme. Ma la ricerca dell'applicazione di interesse è facile? In linea di massima è piuttosto facile perché comunque sui nuovi store effettivamente la ricerca è abbastanza diretta sulla parola di ricerca, insomma, che viene digitata.